la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori Radio 24, 16:07, primi 52 secondi in diretta da Milano. Vi saluta, vi ringrazio per l'ascolto in diretta e in podcast. Come sempre, Oscar Giannino vi dice di che cosa parliamo oggi. In particolare, mi interesserebbe se qualcuno di voi chiamasse nel caso in cui abbia avuto esperienze che purtroppo hanno avuto in tanti in Italia in questi anni e le hanno ancora in corso, di perdita di occupazione e di riformazione, cioè con corsi, programmi di miglioramento del proprio capitale umano in vista dell'occupabilità, da chiunque tenuti o consigliati. Mi interessa in particolare questa esperienza, e anche se vi occupate naturalmente professionalmente di formazione professionale, perché la puntata di oggi la dedichiamo a un approfondimento chiesto da molti di voi, dicendo: ma scusa Giannino, tu insisti spesso sul fatto che bisognerebbe avere politiche di sostegno all'occupazione di tipo diverso, e usi sempre questa parola: ci vogliono le politiche attive e la politica continua invece, e il sindacato, io dico anche sempre il sindacato, continua a preferire che il più delle risorse che noi destiniamo sul totale della spesa sociale al sostegno del reddito di chi non ha lavoro o ha perso lavoro è invece dedicata a gli strumenti delle politiche passive, cioè all'integrazione al reddito, che, come sapete, siamo nella transizione, ma sono cambiate in questi anni. Siamo passati dal vecchio regime della cassa ordinaria, straordinaria e in deroga alla NASPI. Ok, quelli sono gli strumenti di integrazione al reddito, quindi si chiamano politiche passive perché esplicano i loro effetti nel dire: non c'hai lavoro, per un certo periodo di tempo noi ti integriamo il reddito. Le politiche attive, tutti dite, ma che tu presenti come alternativa, ma che alternativa sono? In che cosa consisterebbe mai? E naturalmente molti di voi a quel punto dicono: perché la realtà di quello di cui tu parli, cioè la riformazione, l'impostazione per la quale è inutile più pensare al posto fisso, bisogna immaginare che i percorsi professionali siano alternanze sin dall'inizio di lavori a tempo determinato, a tempo pieno o part time, in aziende diverse, con competenze che magari all'inizio non sono date dalla scuola e dall'università pubblica, ma sono da pretendere e da richiedere anche nei contratti, come in via di formazione nel procedere della propria esperienza professionale, perché senza di quelle non si passano decenni immaginando di essere occupabili facendo le cose di prima come le si facevano prima, perché tutto cambia a una velocità molto più rapida. Ecco, quando io dico questo, voi mi rispondete: ma di che cosa parli? Cioè, chi di voi spesso scrive dicendo: io ho a che fare con centri dell'impiego pubblico, quelli provinciali, la cui competenza poi è regionale, ma sono i centri dell'ordine, e lì siamo parlando di tutt'altra cosa rispetto a quello che dici tu. Allora, molti di voi hanno l'impressione, e io non è che la contesto, che la formula che usa chi come me dice dovremmo svoltare verso le politiche attive sia una comoda copertura per dire: no, dilla tutta, tu intanto ci vuoi tagliare il sostegno al reddito, predicando un modello di acquisizione di competenze che nella realtà non esiste in Italia, e allora quello che resta è semplicemente una scusante per dire che ci volete levare anche quel poco che il welfare pubblico ci riserva. Questo è il punto di partenza di questa trasmissione, e allora ci siamo detti: facciamo una puntata in cui chiamiamo il presidente dell'ANPAL, cioè dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, Maurizio Del Conte, che sta prestando in questi anni un servizio, per così dire, civile, cioè è diventato un civil servant perché lui in realtà era un professionista, insegnava all'università. Ecco, e sta adesso si è preso sulle spalle il compito di coordinare e guidare le politiche attive del lavoro nel nostro paese. Quelle che io dico che ci voglio di più, io lo dico insieme ad altri, ma insomma, però Partiamo da questo presupposto. Lo abbiamo invitato e oltre a lui avremo anche un manager nazionale di una delle grandi imprese private, dei grandi gruppi internazionali che sono specializzate esattamente nell'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. Avremo con noi il country manager di Adecco e per tentare di spiegarvi, ricapitolare a che punto siamo con le politiche attive, che cosa ci possiamo aspettare, che cosa si potrebbe fare di più, se le risorse bastano per farlo. Altra domanda, bisogna immaginare che bisogna avere un modello unico uguale a livello nazionale? Io per esempio, fine della mia introduzione, penso proprio di no. Cioè penso che in presenza di tassi di occupazione così incredibilmente difformi come quelli che abbiamo in Italia, il modello delle politiche attive deve essere differenziato perché deve interpretare le specifiche esigenze, anzi diciamola meglio cari amici ascoltatori del Sud, le specifiche emergenze tragiche che ci sono in alcune parti d'Italia, e quindi in quelle parti d'Italia le politiche attive del lavoro secondo me è molto più giusto che siano statali statali, per così dire, cioè lo Stato non deve limitarsi semplicemente, come invece può fare al nord, a essere il soggetto accreditatore di tutti i diversi player che poi si impegnano a fare l'intermediazione efficace tra domanda e offerta di lavoro, si impegnano a essere coloro che organizzano la riformazione ricorrente a cui vincolare poi le offerte di occupabilità, che a quel punto diventano condizionate, cioè non puoi dire di no. No? Ecco, ma è chiaro che nel sud, dove siamo in presenza di una condizione terribile, beh, lì è diverso, lì è proprio un'emergenza nazionale, secondo me, quella delle politiche attive del lavoro. Io vi ricordo solo questo dato. A livello nazionale il tasso di occupazione 25-64 anni oggi nel nostro paese è un po' risalito grazie agli 800.000, quasi 900.000 occupati in più, concentrati soprattutto nelle corti anagrafiche over 50, come sapete, in questi tre anni, e con un'elevatissima percentuale comunque di lavoro a tempo determinato, e si è riposizionato verso il 60%, quasi sfiora il 60%. Nel nord Italia siamo a una media invece che ha acchiappato la media dell'Unione Europea, cioè che è intorno al 69%, ma il tasso di occupati 25-64 anni nel sud è di 24 punti inferiore rispetto a quello del nord, 24 punti, cioè stiamo parlando del 45%, capite che lì il problema delle politiche attive del lavoro è una, per me, emergenza nazionale, che io non vedo nel dibattito pubblico, ma i numeri ci dicono che c'è e come. Allora, fine delle mie troppo lunghe chiacchiere, Maurizio Del Conte, il presidente dell'ANPAP, appunto l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, presidente. Buongiorno a voi. Mi scusi l'impostazione didascalica, però sa, la gente sente delle definizioni, ma non è detto che capisca, perché se uno non gliele spiega, quindi gliele spieghi lei che cosa è la politica attiva del lavoro che lei deve coordinare? Innanzitutto politica attiva è un termine bruttissimo, perché secondo me non spiega attraverso le sue stesse parole il significato. Politica attiva vuol dire, è stato coniato sostanzialmente in antitesi alla politica passiva, cioè quella degli ammortizzatori sociali, quella che per decenni ha regnato incontrastata nel nostro paese, e cioè quando c'è un problema occupazionale lo Stato interviene, elargisce una provvidenza al disoccupato, e la prospettiva sostanzialmente non è quella della riattivazione, cioè reimmissione nel mercato del lavoro, ma è quella dell'accompagnamento morbido alla pensione, cioè dell'accompagnamento sussidiato alla pensione. Questo è stato un metodo, direi, scientifico praticato nel nostro paese, una scelta politica precisa, che forse poteva funzionare in un'epoca in cui la spesa pubblica era abbastanza libera nei suoi limiti e in cui l'intero sistema pensionistico consentiva ampi anticipi. Vi ricorderete, credo che i nostri spettatori e ascoltatori si ricordino molto bene, insomma, gli anticipi pensionistici, le cosiddette mobilità lunghe, cioè tutta una serie di strumenti che sostanzialmente sostenevano il reddito fino alla pensione. Oggi questo non è più possibile per varie circostanze strutturali e sovrastrutturali, Quindi chi perde il lavoro oggi deve essere riattivato, cioè deve essere reinserito nell'attività lavorativa. E questo è naturalmente un'operazione complessa perché richiede una infrastrutturazione, cioè richiede che ci sia un pezzo di pubblica amministrazione oppure un pezzo di industria privata, uso il termine industria nel senso di settore. Io credo molto che per il funzionamento delle politiche attive nel nostro paese si debba creare una vera e propria industria delle politiche attive, quindi con il coinvolgimento anche dei privati, che si prendono carico di questa missione, cioè prendere il disoccupato e riportarlo al lavoro. Che cosa si è fatto? Beh, sappiamo che fino ad ora si è fatto molto poco. Io sentivo prima appunto le sue considerazioni sui centri per l'impiego, su alcune esperienze anche vissute dai cittadini, e sentivo anche naturalmente la differenza che si può percepire a seconda di dove ci si reca nel territorio, con servizi qualche volta molto buono, a volte più frequentemente non all'altezza della missione assegnata. Ma voi quante risorse avete assegnate? Cioè in questa transizione verso le politiche attive, nel frattempo ce n'è abbastanza o non ancora? Sapendo che ovviamente non basterebbero mai, ma insomma dica lei. No, io posso solo dire questo. È chiaro che noi, il nostro paese, l'Italia, non ha mai investito su questa misura, su quest'asse di spesa, perché appunto investiva solo sugli ammortizzatori sociali. E se noi facciamo il confronto con altri paesi a noi vicini, ci rendiamo conto che le risorse investite sono, diciamo, da un quinto a un decimo rispetto a quello che viene investito negli altri paesi, e quindi evidentemente c'è anche da un quinto a un decimo dell'efficacia di questo intervento. Però io credo che prima ancora di pensare alle risorse, che sono sempre fondamentali, si debba anche pensare un po' al modello, cioè che cosa vogliamo costruire in Italia, perché è obiettivamente inverosimile immaginare che si quintuplichino o si decuplichino le risorse per le politiche attive oggi. Non ci sono questi soldi, inutile stare a sognare. E quindi bisogna capire che tipo di modello può essere costruito realisticamente in un paese che investe poco di proprio in politiche attive. E da qui l'idea di costruire questa alleanza fra pubblico e privato, e quello che dicevo prima, l'idea di creare un'industria della ricollocazione, dell'accompagnamento al lavoro, in modo che ci siano dei privati che alla fine da questa attività traggano un business, ma con una finalità evidentemente utile per la società. È sbagliato pensare, perché può essere che lei mi dica e io a quel punto mi taccio, però è perché è lei che a questo punto ha in mano la cosa. È sbagliata l'idea di un modello anche differenziato territorialmente, secondo lei? No, io credo che sia necessaria una differenziazione nel territorio, nelle misure, negli interventi specifici verso le persone. Credo che però alcuni diritti vadano garantiti su tutto il territorio. Certo, non è universale. Certo. Esatto, e quindi il punto qual è? È che noi purtroppo questo concetto lo sviluppiamo molto poco, cioè noi siamo più capaci di dire facciamo il minimo, che magari funziona anche al minimo in certi territori dove evidentemente c'è un mercato che funziona, insomma è più facile fare ricollocazione dove c'è domanda di lavoro, no? E quindi paradossalmente noi abbiamo servizi più efficienti dove ce ne sarebbe meno bisogno e abbiamo servizi meno efficienti dove ce ne sarebbe più bisogno. E a propria volta è diventato un pezzo del gap invece che una risposta al gap. Esattamente, è un moltiplicatore praticamente di questo gap. Si allarga sempre di più la forbice fra nord e sud. Da questo punto di vista io sono completamente d'accordo sul fatto che inutile sprecare, cioè nel senso sprecare, duplicare risorse e interventi laddove ce n'è meno bisogno, e invece è molto più utile concentrare risorse e interventi laddove invece c'è più bisogno. E dovrebbe essere effettivamente questo il compito di un'agenzia nazionale, che naturalmente si preoccupa appunto di redistribuire i servizi in funzione del bisogno e riportare, per quanto possibile, ovviamente. Le competenze regionali, visto anche insomma come è andato il referendum del 4 dicembre, cioè le competenze regionali del 116 e delle competenze concorrenti e proprie, come ancora coerenti all'intervento di riforma costituzionale del 2001, agevolano il compito vostro o lo complicano? Allora, qui bisogna fare una piccola storia di quello che è successo. Se noi fossimo partiti da una situazione di successo, cioè un modello efficiente di politiche attive, così come sono state sperimentate negli ultimi 20 anni, direi, gestite a livello regionale, l'idea di creare un'agenzia nazionale sarebbe stata una bestialità, nel senso che partivamo già da un modello di successo, squadra che vince non si tocca. Il problema è che così non è, cioè il problema è che la gestione così frammentata, così anche, diciamoci la verità, disordinata delle politiche attive lungo il territorio ha impedito esattamente quello che dicevo prima, cioè che si creasse una industria, perché un'industria deve avere almeno di questo tipo, deve avere almeno un respiro nazionale, mentre oggi chi si trova, anche gli operatori privati che si trovano a operare sul territorio, devono in ogni differente regione costruirsi un modellino di business, sì, un modellino organizzativo diverso in funzione delle regole che vigono in ciascuna regione. E quindi da questo punto di vista io credo che avere degli standard omogenei che diano delle regole omogenee su tutto il territorio sia il minimo. Faccio un esempio molto banale, ma un'agenzia per il lavoro che opera in una regione deve seguire dei regolamenti sulla dimensione del bagno presente in quella agenzia che sono diversi da quelli di un'altra regione, e questo sembra una banalità, ma in realtà comporta che alla fine ciascuno limita la propria azione, perché è impensabile doversi moltiplicare, cioè le economie di scala qui vanno a farsi benedire. In più è chiaro che un investimento fatto a Milano, tanto per essere chiari, ripaga in tempi veloci. Un investimento fatto a Catanzaro, certo, è difficile che ripaghi. Non c'è dubbio. Allora, ci ha raggiunto, perché è collegato da Vienna, dove per una riunione del suo gruppo internazionale, il manager nazionale responsabile di Adecco Group Italia, quindi stiamo parlando di un grande player internazionale, la cui specializzazione è proprio costituire quel mercato, essere uno degli attori di quel mercato, di quell'industria, anzi, di cui parlava Maurizio Del Conte. Andrea Malacrida, grazie di essere con noi. Buonasera Giannino, buonasera Del Conte. Allora, ci dice, se dovesse indicare, non tanto a Maurizio Del Conte che è il presidente, ma se dovesse avere di fronte a sé un paio di interlocutori, un paio di decisori pubblici, le cose che nella vostra esperienza servirebbe di più implementare, cambiare, migliorare, per rendere più efficiente la vostra azione di intermediazione della domanda e dell'offerta di lavoro nel nostro paese, cosa indicherebbe Malacrida? A tutto tondo, quindi a tutto, diciamo che la risposta non è quindi solo sulla ricollocazione legata del Conte, bensì oggi riscontriamo una latenza per ciò che riguarda alcuni skill shortage ed alcune competenze che vengono richieste al mercato del lavoro, e quindi questo warning forte della disoccupazione che un po' sta scendendo, che però continua ad essere una situazione molto critica, è secondo me dovuta fortemente alle lacune che oggi il nostro sistema di educazione formativo, di formazione, ciclo secondario e terziario, verso quelle che possono essere i bisogni reali del nostro mercato del lavoro, quello che richiedono realmente. Questo è il primo, secondo me. Il primo è veramente obbligare a fare orientamento al lavoro all'interno delle scuole a tutti i livelli con pragmatismo e chiarezza rispetto all'indirizzo a cui vogliamo portare le persone rispetto appunto ai bisogni del mercato del lavoro. Questo su tutto. Poi concordo con Del Conte quando giustamente dice la non uniformità che abbiamo in Italia su troppe capacità di legiferare o deliberare su determinati interventi, quali per esempio la ricollocazione, ciascuna regione fa a suo modo, ovviamente non aiuta in questo momento, diventa molto critico. Lunedì, sempre al convegno che abbiamo tenuto a Napoli sul tema delle giovani del sud, il problema era: ma perché se ne vanno in tanti? Se ne vanno in tanti, una delle ragioni fondamentali è proprio perché anche quelli a miglior capitale formato, anche nel sud, nell'istruzione secondaria o terziaria, non trovano poi, se il capitale è particolarmente formato, neanche una domanda che li incroci. Ma al di là di questo, magari fanno poi un percorso post terziario all'estero, e a quel punto è all'estero che trovano ciò che non trovano qua. Però secondo me ci vorrebbe anche la consapevolezza da parte della politica di dire, per esempio, nel sud, invece che arrivare a neanche 2.000 iscritti al totale degli ITS, ne abbiamo solo più neanche 8.000 in Italia negli ITS. Gli ITS sono, per così dire, l'Accademia degli Istituti Tecnici, da dove si formano quindi qua dei tecnici specializzati di cui le imprese hanno una fame molto elevata nel nostro paese, e noi ne abbiamo neanche 8.000 iscritti in tutta Italia, anno 2016-2017, non ho i dati di quest'anno ancora, e in Germania sono 740.000. Io lo dico sempre questo, ce servirebbero come obiettivo, abbiamo bisogno di ITS capaci di formarne 100.000 nei prossimi tre anni nel sud. Questo per, come ordine, voglio dire, di grandezza, ecco, realistico. Questo però per il momento non c'è ancora. E quindi come si fa a organizzare una formazione ricorrente partendo dal presupposto che noi però nel breve e medio periodo una riforma vera della offerta professionalizzante del ciclo della secondaria e terziaria italiana non ce l'avremo, perché non ce l'avremo nel medio periodo? Abbiamo appena avuto una riforma il cui compito fondamentale imposto all'Europa è giusto, era quello di sanare il precariato, ma che non ha fondamentalmente cambiato i curricula, le materie, e non ha adottato la scelta professionalizzante. Quindi nel breve cosa bisogna inventarsi per la riformazione? Allora, di sicuro ci aspetta, e ahimè stiamo vivendo un momento ancora di più di incertezza rispetto a quello che sarà la decisione sul Jobs Act 2 o non Jobs Act 2, su andare a capire quale sarà l'evoluzione di regole o di evoluzioni legate al mercato del lavoro. Allora, qualche cambiamento onestamente positivo nel Jobs Act non possiamo non riscontrare di averlo sperimentato, no? Perché anche solo nominare quella che lei ha accennato ad essere una best practice molto forte, che è quella tedesca, e quindi la sperimentazione legata all'alternanza scuola-lavoro in Italia, di sicuro è una buona idea, ok? Ahimè, oggi rimane ancora un'idea, nella misura in cui non vengono coinvolti gli attori, i player che realmente possono, ecco, farla diventare. Posso dirle questo? Noi nelle trasmissioni in cui abbiamo fatto parlare gli ascoltatori su questo, infatti, siamo stati sopravanzati da segnalazioni, interventi telefonici in cui genitori e magari studenti stessi dicevano: quello che ci stanno proponendo è stato organizzato da chi, senza colpa, perché stiamo parlando di dirigenti scolastici, il dirigente scolastico non è chiamato a saper organizzare o scegliere al meglio e a coinvolgere le aziende necessarie per dare il miglior percorso alternanza scuola-lavoro. Sapete che con Jobs Act abbiamo innalzato il monte ore sia per i licei che per i professionalizzanti, 200 ore, 400 ore. Però molti ci raccontavano delusione per questo. Ma il problema è quello che dice lei, perché a organizzare queste cose deve essere uno che ha la realtà dell'impresa e dei bisogni territoriali ben fotografata nella sua esperienza di attività professionale e di impresa. Poi se posso, su questo vorrei aggiungere una cosa io. Certo. Prego, prego. Ubi Maior. No, ma la creda, no, dica lei, dico, e poi facciamo parlare il presidente. Dico solo una cosa, De Conte, scusi, Maurizio. Allora, l'unica cosa che dico è la stessa ragionamento che faccio quando chi è chiamato a legiferare o a decidere sul mercato del lavoro a parole pensa di coinvolgere il mercato delle aziende, a parole pensa di conoscere realmente qual è l'osservatorio reale, poi di fatto non viene coinvolto, ecco. Onestamente. Quindi io oggi questo, ahimè, se vogliamo essere pragmatici, riempirci la bocca su definire quali possono essere delle strade per ridurre la disoccupazione e poi non coinvolgiamo chi Oggi Adecco gestisce più o meno 400.000 persone in Italia tutto l'anno, non sono proprio due numeri. No, non sono 50.000, 50.000 aziende oggi in Italia a livello di registro di gestione. Onestamente, secondo me dobbiamo partire da lì per provare a capire chi ha il reale termometro e il reale punto di osservazione di quali possono essere i cambiamenti e i bisogni che oggi l'Italia ha bisogno, e soprattutto, se parliamo, lei citava Giannino, madri riferite a giovani o a ragazzi che hanno frequentato l'altra scuola lavoro con armati di buone speranze, ma con esiti senza dar colpa a nessuno, ovviamente gestiti da non addetti ai lavori. Da non addetti ai lavori. Allora, adesso abbiamo una pausa per capire cosa succede in borsa, un po' di pubblicità, e poi torniamo e ricominciamo con il presidente del Conte, che voleva intervenire proprio su questo punto. Tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta a 16:39 primi e 20 secondi, con noi Andrea Malacrida, che è il country manager di Adecco Group Italia, e Maurizio Del Conte, il presidente dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. Ecco, il presidente Del Conte, quando con Malacrida abbiamo chiuso dicendo, beh, insomma, nell'alternanza scuola-lavoro, quando insomma la politica chiede e immagina interventi per realizzare il ponte per l'occupabilità, magari però Forse chiamare direttamente le imprese sarebbe meglio, che hanno in mano la situazione. Che dice Del Conte? Ma io dico che una delle iniziative più significative che stiamo realizzando proprio in questo momento è esattamente in questa direzione, sull'alternanza scuola-lavoro. Noi abbiamo qui sì investito tanti soldi per creare una rete in tutta Italia e attendere su tutte le scuole di figure professionali che vadano negli istituti scolastici superiori e mettano in contatto le imprese, quelle vere, con le scuole. È un'operazione che noi abbiamo ritenuto necessaria per mettere a terra la riforma della buona scuola, che secondo me contiene un'idea fondamentale. Guardi, c'è una cartina molto interessante da vedere che illustra la differenza fra i paesi che hanno il sistema di alternanza, in generale il sistema duale, cioè dove si studia e si lavora contemporaneamente, e i paesi in cui la disoccupazione giovanile è più bassa. Bene, le due cartine a livello europeo coincidono perfettamente, cioè dove c'è un sistema duale, dove c'è alternanza, c'è bassa disoccupazione dei giovani. Ma è assolutamente vero che un conto è disegnare in un testo di legge una bella norma, un altro è realizzarla concretamente. Per questo quello che veniva prima riferito di esperienze di giovani che vanno e magari vengono messi a volantinare oppure ad attività che nulla hanno sotto profilo formativo, e devono essere esperienze che non si verifichino più, ma in compenso si devono verificare esperienze positive. Tenga presente che le scuole non erano, evidentemente, non per colpa di nessuno, non erano preparate a questo, diciamo, ingresso così massiccio di studenti che avrebbero dovuto svolgere questo. Stiamo parlando di 1.400.000 studenti che da un anno all'altro praticamente si trovano a dover essere distribuiti in un tessuto imprenditoriale che tendenzialmente è fatto di piccole imprese poco strutturate, e che quando si vedono uno studente arrivare incominciano a preoccuparsi se ha l'assicurazione giusta, se per caso ha qualche problema di salute che potrebbe configurare una responsabilità, e so poi chi lo segue. Quindi tutto questo è un lavoro paziente che naturalmente si fa sostanzialmente lontano dai riflettori mediatici, ma che noi stiamo facendo, e crediamo che non dopo domani, ma col tempo, questo aiuterà moltissimo a sviluppare anche in Italia una serie di esperienze positive di alternanza, e quindi avvicinare i nostri studenti a quello che fanno. Non stiamo scoprendo nulla, stiamo semplicemente facendo quello che fanno i loro colleghi francesi, i loro colleghi svedesi, i loro colleghi tedeschi. Un po' di normalità anche per noi ci farà molto bene. Malacrida, però una cosa adesso mi rendo conto, forse non è elegante chiederlo e probabilmente è improbabile aspettarsi una risposta, diciamo, ruvida, però voi siete un gruppo internazionale e avrete dentro fior di letteratura comparata che aggiornate di volta in volta nel valutare gli effetti dei diversi modelli nei diversi paesi, stante proprio le diverse caratteristiche istituzionali in cui vi si chiede di articolare e declinare diversamente la vostra vocazione ed esperienza, no? Di ponte per in vista della nuova occupabilità. Allora, se dovesse dirci il modello che funziona meglio in Europa, no, non le chiedo di dare un giudizio sull'Italia perché non la voglio mettere in imbarazzo, perché dice, non mi puoi chiedere di dare il voto e poi mi trovo il politico di fronte e l'assessore di fronte. Ok, però il modello più efficace al quale potremmo, viste le caratteristiche istituzionali italiane, perché se io dico modello tedesco tanto non viene adottato, ma quello da cui trarre degli spunti per dire, beh, questo intanto però si potrebbe fare anche qua, cosa ci direbbe come modello? Non le risponderò, Giannino, lo sa già, nel senso che non posso andare, ciascun paese oggi ha differenti diciamo impatti esogeni legati alla contribuzione, legati ai livelli di occupazione, legati alla capacità di accettare e gestire diversi termini di flessibilità, diverse maturazioni, vi dicendo. Onestamente il mio pensiero è che in questo momento abbiamo un'opportunità incredibile in Italia, okay, dove l'occupazione è ritornata finalmente ai livelli del 2007, dove aveva raggiunto ovviamente i picchi più importanti, però si è totalmente trasformata, perché i dati dell'INPS dicono che l'occupazione è appena superiore al 2007, gli assunti a tempo indeterminato sono di poco superiori, si è stravolta totalmente la richiesta di flessibilità da parte delle aziende, che cresce a doppia cifra anno su anno. Oggi sta crescendo il contratto termine, lo leggiamo tutti i giorni sui giornali, o i somministrati di oltre il 20% anno su anno, e quindi c'è un bisogno forte di flessibilità che non crea instabilità, ma crea quello che sarà onestamente il tema dei prossimi anni, che è: dimentichiamoci dell'esistenza del posto fisso, ma parliamo esclusivamente di occupabilità e capacità di autoformazione. Questo è un po' il passaggio, secondo me, fondamentale su cui dobbiamo lavorare come Italia, e ce n'è un'opportunità incredibile, ahimè, ritorno sul tema, se le istituzioni, gli stakeholder, le aziende coinvolgono chi lavora quotidianamente e conosce quotidianamente quali possono essere le soluzioni reali per poter aumentare oggi la competitività di un paese come quello italiano. Onestamente, nonostante tutto quello che si possa pensare, sinceramente ha degli ottimi margini di crescita. E secondo me la questione culturale è una precondizione che forse aiuta a spiegare, adesso chiedo l'ultima valutazione rapidissima al Presidente del Conte, perché forse l'esperimento del contratto di ricollocazione, un esperimento in termini quantitativi, però non sta funzionando, perché le resistenze ad abbracciare questo modello secondo me sono molto resistenze culturali, dicendo io devo accettare un progetto che mi vincola delle cose, poi se dico no e no, preferisco allora semplicemente l'assegno integrativo della mia vecchia disoccupazione. Non è una questione culturale innanzitutto del Conte che non sta facendo funzionare l'esperimento? Sì, è una questione culturale storica, cioè nel senso che quello che dicevo prima, abbiamo sempre lavorato in un senso diverso, abbiamo sempre messo al centro l'idea dell'assegno, del sussidio di disoccupazione, quindi passare da una situazione di questo tipo a una situazione in cui ti dico no, guarda, tu adesso devi incominciare a attivarti, appunto, e quindi metterti in gioco, seguire corsi di riqualificazione professionale, fare colloqui. Sì, io quest'estate ho di fronte a un'azione che abbiamo lanciato su Alma Viva, probabilmente la ricorderanno anche i nostri ascoltatori, dove presa un'azienda chiusa di fatto, con dei lavoratori per strada, quindi una situazione, poi tra tutto lavoratori di call center, non situazioni di particolare, cioè non è che uno abbandonasse un posto di particolare pregio, però quando abbiamo iniziato a fare, a organizzare i primi colloqui di lavoro, un giornale di cui non dirò la testata, ma un giornale nazionale, titolò, fece un bell'articolo dicendo: e adesso per i disoccupati di Almaviva inizia il calvario dei colloqui, che riflette chiaramente una mentalità, insomma una cultura radicata nel nostro paese, cioè attivarsi è un calvario, cercare un posto di lavoro è una scocciatura, bisogna che qualcuno ti dia in tasca un reddito e ti accompagni alla pensione. Questo è un po' il background dal quale dobbiamo che uscire. È meglio superare, ma non perché vi dovete rassegnare perché c'è il male. Ecco, questo lo so che è complicato e non ci credete se ve lo dico io, visto come il corifeo dello spietato darwinismo del mercato. No, perché la possibilità per un paese che sa fare quello che sa fare, e di qua ci becchiamo i quasi 500 miliardi di export, è straordinaria. Certo, bisogna volerlo, bisogna saperlo fare, bisogna crederci, ma non è il discorso di chi dice perché tanto non ci avete più diritti. Allora, io la penso così, chiaro, la mia amica Marta Fana non la pensa così, ma è questo è il bello del pluralismo, però si può fare. Intanto grazie a Del Conte, grazie a Malacrida, noi torniamo tra pochi minuti. Perché? Perché c'è stata una sentenza del Consiglio di Stato sulla tassa Airbnb che sorprende la politica e quindi avremo la voce di Airbnb per commentarvela. La versione di Oscar. This is the end. Ma era già cominciato, mi ero affacciato un secondo, c'era Dario Vergasso qua, volevo salutare e invece mi hanno preso per le orecchie, hanno mandato la più spietata delle assistenti ovviamente per le orecchie. Allora, cosa è successo oggi? Ce l'abbiamo collegato? Perché non vedo il nome però, non vedo il nome. Allora, che cosa è successo oggi mentre mi scrivono il nome del nostro ospite? Perché è successo che il Consiglio di Stato si è pronunciato sull'impugnativa che Airbnb, sapete che è stata introdotta la tassa cedolare secca su Airbnb, l'abbiamo esaminato in molte puntate la faccenda, dicendo non pagano le tasse, non è vero ovviamente, e sono rimasti sordi in Parlamento a chi diceva, quorum ego, anch'io tra quelli, minoranza, guardate che state facendo una roba che significherà solo aggravare gli obblighi per gli intermediari italiani, state facendo una roba che viola norme europee, eccetera eccetera. Ok, la politica ha tirato avanti, perché è facile raccontare che naturalmente questa offerta digitale, che è diversa da quella tradizionale, che non c'entra niente col settore alberghiero, che è magna pars ovviamente di questa campagna, e lo dico e saluto anche naturalmente tutti iscritti a Confindustria, che è l'editore di questa radio, ma io la penso diversamente e ogni volta lo dico esplicitamente. E allora, cosa è successo? È successo che Airbnb ha presentato un'impugnativa nella quale appunto dice: signori, questa e quest'altra norma sono violate da questa impostazione fiscale, che vogliamo fare? Il TAR è andato avanti, il Consiglio di Stato dice al TAR: no, un momento, aspetta un po', tu devi fissare al più presto possibile l'udienza di merito, perché le ragioni poste dall'impresa in merito al pacco di norme violate hanno un fondamento essenziale e quindi tu devi entrare nel merito. Questo è lo sviluppo. Politica sorpresa, perché dice: ma come, noi abbiamo detto che non c'era nessun problema. Allora, abbiamo con noi il manager di Airbnb in Italia, che è responsabile appunto del public policy, Alessandro Tommasi. Buon pomeriggio, grazie di essere con noi. Buon pomeriggio, grazie a voi per l'invito. Che dice di questa pronuncia del Consiglio di Stato? Ma dico che la premessa che ha fatto lei è perfetta, nel senso che per mesi ci siamo sgolati insieme a pochi altri per rappresentare quali che erano tutti i nostri dubbi e cercare di fare invece un dialogo che fosse indirizzato a una soluzione efficiente che funzionasse. Questo non è avvenuto. In Senato qualche giorno fa, qualche settimana fa, durante la legge di bilancio, c'erano delle proposte di emendamento che andavano a rivedere completamente l'impianto della norma, rendendola uno, come dire, efficiente che funzionasse, due, anche che capace di dare un senso e un'attrattività, perché dava la possibilità davvero di andare a digitalizzare un mercato enorme come quello degli affitti delle case, che va in larghissima parte fuori dalle piattaforme oggi, quindi la volontà di spostare le persone verso il digitale e quindi di portare verso il nuovo millennio, diciamo così, un mercato invece per gran parte difficile. Tra l'altro aderendo in questo caso in maniera concreta e sostanziale alle preoccupazioni di chi dice: no, perché è tutto un fenomeno fuori controllo, invece però bisogna volerci andare sul serio sul digitale, non semplicemente ti tasso, per così dire. Esattamente, quello che è successo dall'approvazione della della tassa, diciamo, ad aprire durante la manovrina è stato che chi ha potuto, anche altre piattaforme, hanno smesso di transare, quindi di gestire i pagamenti, quindi meno digitalizzazione, meno trasparenza, quindi un effetto contrario rispetto a quello atteso. Le proposte che andavano a modificare in maniera olistica l'approccio sono state abbandonate, probabilmente anche perché qualche interesse contrario ci vedeva chissà quale aiuto, e ad oggi siamo a questa decisione del Consiglio di Stato. E comunque ci ricomincia nel merito a riesaminare la faccenda, vediamo, però è già un passo avanti, insomma. Sì, ma io credo che il passo avanti vada fatto nel metodo col quale si scrivono le norme, si vogliono scrivere le norme sul mondo dell'economia digitale, perché infatti, altrimenti, se non c'è il coinvolgimento delle parti, questa tassa famosa è stata chiamata tassa Airbnb, ma abbiamo avuto grandissima difficoltà nell'essere ascoltati e di far parte di gran parte delle conversazioni. Quindi è prima di tutto una questione del metodo su come si può... Ma no, ma perché questo è quando la politica si prefigge di colpire un obiettivo, non di intervenire in maniera equa su un problema, vero o presunto che sia. È la stessa impostazione della web tax ed è lo stesso tipo di critica che io di qua faccio anche alla web tax, che invece i giornali vedo che continuano ad annunciare. Oggi alcuni hanno trovato grande passo avanti, Facebook tagliato sul fatturato. No, la tassa sul fatturato non esiste, si fa sugli utili, cari colleghi, non diciamo stupidaggini, per favore. Intanto grazie anche ad Alessandro Tomasi, continuate su Radio 24, appuntamento alle 8:15 domattina con me e Luca Talese, 24 mattina, e poi alle 16 come sempre in diretta qua alla versione di Oscar.